Ancora una, poi smetto. Le serie TV consigliate da Marta Cagnola. Ancora una, poi smetto. Stai guardando una serie che ti piace, che ti intriga, che ti prende. Decidi che è tardi. Devi dormire, devi uscire, devi sistemare la casa, devi metterti a lavorare, ma che c'è tempo almeno per una puntata sola. E poi però diventano due, tre. Succede con la serie giusta. E oggi vi consigliamo le serie giuste a tema sportivo. Io non sono una grande esperta, allora ho chiesto l'aiuto di un amico, giornalista, scrittore, appassionato di cultura nerd e digitale, Emilio Cozzi. Emilio, qual è la situazione delle serie a tema sportivo? Allora, la situazione, voglio fare una premessa che risponde alla cosa che mi hai appena chiesto. La situazione, secondo me, è piuttosto diversa quando appunto c'è una storia, diciamo, scriptata, cioè sceneggiata prima, e quando invece l'approccio è più documentaristico. Francamente io, senza alcun dubbio, preferisco la seconda cosa. Perché? Perché lo sport in quanto tale, chiaramente lo sport ha i suoi massimi livelli, ma forse non solo, è sempre più dello sport. Questo lo sa qualsiasi fan. Adesso, senza banalizzare, non voglio dire che sia la metafora della vita, però lo sport contiene una serie di contenuti dal punto di vista emotivo e dal punto di vista proprio valoriale, per cui il sacrificio, la determinazione, che vanno molto al di là dello sport. Non serve allo sport una sceneggiatura aggiuntiva, ovviamente nel limite del possibile, perché anche i grandi documentari ovviamente sono frutto di una scelta, di una selezione, di una visione registica, ma secondo me il meglio di quello di cui parleremo è quando l'approccio è documentaristico o semi-documentaristico. Quando c'è una sceneggiatura dietro, io credo che non serva, anzi uno degli esempi peggiori che poi discuteremo, se vuoi, è proprio un film in cui lo sport è sceneggiato e, come dire, non gli serve. Lo sport molto spesso si basta da solo, e questa secondo me è la discriminante. Allora, visto che partiamo invece dai migliori, hai citato i migliori, secondo te la serie da non perdere assolutamente per quanto riguarda lo sport qual è? In questo momento direi The Last Dance, che è un po' l'evento dell'anno, perché è un documentario, intanto, forse sullo sportivo, io credo più forte di sempre in assoluto e per tanti motivi diversi. Adesso è chiaramente un gioco, è chiaramente ironico, non possiamo paragonare epoche diverse, è un vecchio giochino, lo sportivo più forte di tutti i tempi, men che meno discipline diverse, però credo che Michael Jordan rappresenti l'eccellenza nello sport ogni tempo, come dicono gli americani, e veramente dal punto di vista della dedizione, dei risultati e dei sacrifici, perché Jordan ha anche perso molto prima di vincere tutto, come peraltro diceva una pubblicità, beh, credo che Jordan rappresenti il limite fra sport e arte, come pochissimi altri. Mi vengono in mente Mohamed Ali, mi viene in mente Maradona, mi viene in mente Senna, mi viene in mente Federer forse, non tanti altri, non ce ne sono più. Ecco, Jordan, che in questa serie appunto della Last Dance è raccontato nella sua ultima annata ai Chicago Bulls, che per chi non lo sapesse erano chiamati Beatles del basket, questo per far capire la concentrazione di talento che c'era in quell'anno, cioè 97-98, è raccontato in 10 episodi con retroscena mai visti prima, e da una produzione di ESPN che in sostanza è lì negli archivi da 20 anni. E quindi immaginate cosa vuol dire tirare fuori una serie 20 anni dopo gli eventi raccontati, eppure, come dire, cambiando tutto quell'anno lì. La serie, tra l'altro, era prevista 2 mesi dopo l'uscita, è uscita lo scorso aprile, e l'hanno anticipata perché a gran voce il pubblico chiuso in casa, purtroppo per noi, l'ha voluta. Io devo essere sincero, quello che abbiamo ottenuto forse va addirittura al di là delle nostre aspettative. Anche se uno non è un appassionato di pallacanestro, questa è la serie da vedere per forza. I want you to feel what I feel. What time is it? Game time. I want you to feel the tears that I felt when I won the first one. Those tears and that pain, and I wanted that feeling at the end of every year. And that's hard. It's like a dependency. It's always going to be a part of you. Shot by Jordan. Good! Gli episodi sono tanti e sono anche lunghi, perché sono episodi da 60 minuti, il che vuol dire che non si parla solo strettamente di sport, soprattutto se si segue una stagione sola. Quindi chi volesse vedere questa serie su Netflix, che cosa si aspetta? Che tipo di narrazione, di insegnamenti, non lo so, che cosa bisogna aspettarsi? Bellissima domanda, bisogna aspettarsi di tutto e di più, anche il lato scuro dello sport, che magari sfocia nella ossessione per la vittoria, che magari sfocia in un'aggressività eccessiva, che magari sfocia nel nascondere dietro l'icona, e di sicuro Michael Jordan e Chicago Bulls lo sono stati negli anni 90, ma non solo. Dietro l'icona in realtà nasconde lati che sono umanissimi, di queste persone più grandi della vita, come si suole dire, che in realtà sono persone normali, sono ragazzi con problemi, con difetti, con piccolezze e anche in alcuni casi con meschinità, che voglio dire, ci accomunano purtroppo bene o male tutti. E questa storia è clamorosamente efficace per quello, perché dietro un'icona gigantesca che supera il tempo, supera la disciplina, supera le epoche, nasconde anche i lati oscuri di tutto quel tipo di venerazione mediatica e quel tipo anche, se volete, di business, perché lo sport, ai noi, è anche business. Ebbene, dietro ci sono dei lati oscuri e delle cose che lo rendono, per paradosso, molto più umano dell'umano, direbbe Blade Runner. Ma questo in realtà fa di questa serie, secondo me, proprio uno dei casi più belli e più efficaci nel raccontare, come dicevi tu prima, più dello sport. Lo sport è quasi un pretesto. Ecco, nelle grandi storie di sport io credo che lo sport sia quasi un pretesto, e questa serie lo dimostra molto bene. Emilio, c'è un titolo che assomiglia molto, da The Last Dance a Last Chance You. Allora, titoli inglesi, meglio non tradurre un titolo se si rischia di far danni, sono di questa scuola di pensiero. Siamo sempre su Netflix, cos'è? Siamo sempre su Netflix, è una serie che ormai è arrivata alla sua quarta stagione, anche qui un approccio documentaristico. Di cosa parla? Parla molto semplicemente di questa, diciamo, squadra della East Mississippi Community College, i Lions, che sono una squadra, per chi non se ne intendesse, della serie Junior College, quindi non, diciamo, di prima divisione, una squadra appunto universitaria, dove vengono deviati, storia vera, verissima, vi consiglio di controllare i nomi dei protagonisti, perché li ritroverete oggi nello sport americano collegiale, sono proprio loro. Ebbene, vengono deviati lì quei casi di ragazzi che abbiano avuto problemi o di tipo comportamentale o addirittura abbiano avuto problemi legali. Nelle università, soprattutto quelle prestigiose americane, quando un ragazzo ha questo tipo di problemi oppure non ha una media sufficiente nelle altre materie, viene sostanzialmente cacciato via. Guys from Division 1, who had been in trouble, fails a drug test, flunks out of school, who disappeared for a couple years and then show up again at Alabama or the New England Patriots, this is where they come from. You don't get this but one chance now. You don't get one chance in what we're trying to do. You got me? Questa è l'ultima chance. Ecco lì il titolo, di questi ragazzi che hanno dei prospetti sportivi e del talento eccezionale nel football americano, scusatemi, non l'ho precisato, vengono messi qua come ultima spiaggia. Hanno praticamente una stagione in questo college che è pazzesco, perché siamo in un posto veramente rurale nel Mississippi e ci sono più persone che vanno a vedere le loro partite che non quelli che abitino nel paesino dell'università, e lì devono giocarsi il tutto per tutto. Per alcuni di loro è veramente l'ultimo tentativo per uscire da situazioni magari difficili, da situazioni poverissime o addirittura con problemi anche più seri, e lì si giocano il tutto per tutto. Netflix ha seguito per addirittura 4 anni di fila i ragazzi di questa scuola, e vi assicuro che anche in questo caso, come dicevamo prima, lo sport è solo un pretesto. Si racconta una dimensione umana di dedizione, di sacrificio e anche di piccolezze e di difetti con i quali dobbiamo confrontarci tutti i giorni, tutti. Beh, io su questo genere, sulle serie e sui documentari sportivi, ho pochi consigli da dare, quindi mi devo fidare soprattutto del tuo giudizio. E in questo caso ti chiedo, bisogna essere appassionati del football americano per vedere questa serie? E più in generale, anche chi non è appassionato di un certo tipo di sport o dello sport in generale può farsi incuriosire? Decisamente sì all'ultima domanda, no alla prima. E questo lo dimostra anche la serie che a breve ti descriverò sul calcio, perché io sono... Non sono un amante del calcio, anzi, la dico tutta, questo non mi attirerà le simpatie di tanti tuoi ascoltatori, io sono allergico al calcio, ma le grandi serie di sport, proprio in quanto tali, in qualche modo scavalcano anche quella passione lì. È ovvio che se uno conosce le regole del football americano o del baseball o del basket, riesce a godersi delle finezze che magari il novello non apprezza, però davvero sono finezze e non sono determinanti. Quindi anche nel caso di la Chance U o di The Last Dance, anche chi non dovesse impazzire per il football americano o per la pallacanestro, davvero si trova davanti a una narrazione così bella, così coinvolgente, che davvero lo sport in quanto disciplina passa in secondo piano. Conta il lato umano, conta la difficoltà che ognuno di noi nelle proprie vite deve affrontare e conta il modo in cui l'affronti, magari anche fallendo. C'è una serie stupenda, se vuoi ne parliamo dopo, che parla di fallimenti sportivi e quanto la capacità di affrontare un fallimento e come si affronti un fallimento fa la differenza. Un'altra serie meravigliosa che sembra parlare di sport, ma parla a ognuno di noi, in realtà, di noi. E questa è la cosa bella, secondo me. Allora, abbiamo aperto il capitolo del calcio e il capitolo del fallimento. Brava. Dai, andiamo sul fallimento. It's all about winning, winning, winning, winning, winning. Anybody who goes to a football match expecting to win is an idiot, I think. Oh, oh my dear. He's 100% in his career loser. He muttered to me, if you'll excuse my English, shit, I've lost it. Losing is a habit. When you get that mindset, then you think you're never going to win a game again. I said, that's it. I'm done with basketball. I've said it to him many times. You're the biggest waste of talent I've ever seen. I had never encountered that kind of darkness before, but I knew I had something to prove. Allora, la serie è sempre su Netflix, si chiama Losers, appunto, perdenti, sono 8 puntate, le dirige Mickey Dutis, che in qualche modo si sofferma su storie verissime, anche in questo caso abbiamo un taglio documentaristico, sebbene in questo caso la sceneggiatura sia più importante e più evidente, anche perché sono storie di tanti anni fa, quindi rielaborate, quindi rivissute secondo un taglio molto d'autore. Ebbene, ci sono 8 racconti, 6 racconti di grandi sportivi che sembravano tali e che invece sul più bello hanno fallito completamente. C'è anche la storia meravigliosa di un italiano che è Mauro Prosperi, che era un pentatleta ultramaratoneta, che durante nel 1994, durante una maratona in Marocco, per colpa di una tempesta di sabbia, si è completamente perso ed è andato 299 chilometri nella direzione sbagliata nel deserto del Sahara. Quindi immaginatevi cosa significhi vivere nel deserto per 20 giorni quasi, cibandosi, non è uno scherzo, di serpenti e pipistrelli nell'attesa che qualcuno venga a ritrovarti senza sapere minimamente dove tu fossi e dove tu sia. È una delle tante storie. Ce n'è un'altra meravigliosa, anzi forse la più bella, di Souria Bonaly, che era una pattinatrice naturalizzata francese che ha vinto medaglie d'argento a europei senza mai vincere un titolo olimpionico, forse per anche un approccio di tipo quasi razzista nei suoi confronti da parte delle giurie. Questo suggerisce il documentario. E anche in questo caso vediamo come una difficoltà, magari nemmeno gestibile personalmente, possa diventare, certo, frutto di generatore di frustrazioni e dolori pazzeschi, ma anche di crescita, e di come questi personaggi siano riusciti da un apparente fallimento, forse da un fallimento vero e proprio, a rialzarsi. Ed è veramente una delle serie più belle, anche in questo caso fa finta di parlare di sport, ma parla di tutt'altro. Ah, la devo guardare assolutamente perché mi ha incuriosito molto. A questo punto io farei uno sconsiglio da parte mia. Please no! No! No! No! Visto che abbiamo parlato di pattinaggio sul ghiaccio, serie di Netflix che si chiama Spinning Out, ambientata nel mondo del pattinaggio sul ghiaccio, segue le vicende di una pattinatrice che ha dovuto fronteggiare un infortunio, che abbandona la carriera, però che vuole rimettersi in gioco. Allora, già la trama è piuttosto banale. Gli attori sono anche carini, questa serie che si chiama Spinning Out è su Netflix, però la sconsiglio per una ragione molto semplice, perché è stata cancellata dopo la prima stagione, quindi se per caso cominciaste a vederla e vi appassionaste, niente, non c'è la seconda, è stata cancellata, quindi direi che non ve la potete perdere, diciamo così, diciamo, ve lo dico col cuore. Un fallimento nel fallimento, metanarrativa direi a questo punto, insomma. Sì, diciamo che voleva tornare a competere e non ce l'ha fatta neanche nella serie. Invece c'è qualcosa, dicevi, qualcosa che ti ha un po' deluso, nel senso che lo sport è talmente tanto che una finzione potrebbe non rendergli giustizia. Il caso più eclatante da questo punto di vista che mi viene in mente si chiama Thunderstruck, non è una serie ma un film, ed è un film in cui Kevin Durant, che è uno dei più grandi cestisti in attività, oggi gioca nei Brooklyn Nets, incontra questo ragazzino che per magia, è il solito film dove c'è la scossa elettrica che fa passare il talento di Durant al protagonista del film. Benissimo. Evitate per qualsiasi motivo, evitate di guardarlo, perché lo ripeto, il film e lo sport è magico di per sé, non ha bisogno di un'aggiunta di contenuti significati. Il grande sport di per sé rappresenta tutto fuorché lo sport. Aggiungere cose, secondo me, per paradosso, lo impoverisce. Questo film, grandi effetti speciali, grande storia, tra virgolette, è veramente povero perché tenta di impreziosire una cosa che non ne ha alcun bisogno. Thunderstruck è su Netflix, saltatelo. Brava. Passate oltre. Non abbiamo ancora parlato di questa serie sul calcio. Cambiamo piattaforma, peraltro. Cambiamo piattaforma, andiamo su Amazon Prime Video e, come dicevo poco fa, parliamo del mio odiato calcio. Ma ne parliamo, o meglio, ne parla questa serie che si intitola This is Football così bene da renderlo gradito anche a me. Football is emotion. It comes from the heart. It crosses all barriers. You play football anywhere. Football can actually help bring communities together. This is an amateur football country. Going to the World Cup was unthinkable. But these guys, they have something in them. The real excitement about football, it isn't always the best team that wins the game. Leo Messi, he was not the tallest, not the strongest. Nobody could imagine that he will be the best player of the history of the football. Ho guardato le sei puntate veramente una dopo l'altra, perché in questo caso davvero lo sport forse raggiunge la sua più ampia capacità di parlare anche alle società e anche in momenti estremamente difficili. Il primo episodio, non a caso, parla del Ruanda e di questa squadra che in Ruanda, dopo, ahimè, il genocidio che tutti ricordiamo ancora, è servita addirittura per ritrovare un'armonia fra Tutsi e Hutu, facendoli giocare a pallone insieme. Ed è di una bellezza sconcertante, perché attraverso il calcio noi viviamo un periodo storico e una società davvero in crisi, davvero allo stremo, che attraverso il calcio riesce a recuperarsi e a ritrovare un'identità assolutamente perduta. This love, this involvement of the whole country, it comes from your guts. You don't refuse to pass the ball because someone comes from a certain place. You are going to pass the ball because you want to win. Una delle cose più belle che abbia visto, dedicate tra virgolette allo sport di questi tempi. E poi ci sono tante altre storie sempre della stessa serie. Si parla di calcio femminile, si parla per i più esperti di Oliver Kahn, il portierone della Germania, e beh, di Leo Messi, che insomma non credo serva aggiungere nient'altro a questo nome. Amazon ha un sacco di serie dedicate al calcio, per gli appassionati potranno andarla a cercare, perché appunto Amazon Prime Video si è molto concentrata su questo filone. Evidentemente è un filone che si sposa bene con le serie e che piace agli appassionati di serie. Ma c'è un altro sport che a me incuriosisce molto, perché è uno sport che di solito sia nelle serie che nei film ha un'ottima resa, e sono i motori. C'è qualcosa relativo ai motori che ci puoi consigliare, Emilio? Per gli amanti della Formula 1 andiamo sul facile: Drive to Survive. 30 secondi, 30 secondi. devono avere la mentalità di un pilota da caccia. È questo che li distingue dai comuni mortali. Prego perché non si facciano male. Non avrei mai pensato che un giorno sarei stata qui a vedere mio figlio. Per me le gare sono un infarto dopo l'altro. Stai bene, Nico? Fatemi uscire, va a fuoco, va a fuoco! Adoro il pericolo, l'adrenalina, l'emozione. E si toccano! Ricciardo ha tamponato Max! Perché? Farei qualsiasi cosa per ottenere i migliori risultati possibili. Non ho paura di morire. Torniamo su Netflix, due stagioni, la prima dedicata alla annata 2018, la seconda stagione dedicata all'anno scorso, la stagione dell'anno scorso. La cosa bella di Drive to Survive, intanto un dispiego di mezzi impressionante. Pensate che Netflix ha avuto l'accesso ai box, i paddock di tutte le scuderie, comprese Ferrari e Mercedes nella seconda stagione, che invece nella prima stagione avevano negato il permesso. Quindi voi immaginate cosa vuol dire avere in tutti i box una troupe che segue gli eventi. Ebbene, la cosa più bella sono i retroscena e le storie nelle storie, non sono tanto le icone, quindi i super piloti di Ferrari, di Mercedes, di Hamilton, di Leclerc, di Vettel, sono le storie dei piloti tra virgolette minori o semplicemente che corrono per le scuderie meno titolate, che fanno capire quanto anche il motorsport, nella fattispecie la Formula 1, dietro lustrini e dietro ovviamente miliardi di miliardi, in realtà nasconda cose molto umane, che sono quelle che rendono bello anche uno sport in cui la componente tecnologica, i motori, la fanno evidentemente da padrone. Davvero anche in questo caso una serie oltre lo sport. Devo dire che io mi sono fidata di te perché non è tanto la mia passione lo sport. Però mi pare che le ispirazioni siano ricche e che comunque davvero chiunque possa incuriosirsi di fronte a queste serie. Ho notato anche che c'è una grandissima cura nelle immagini, che l'aspetto tecnologico e stilistico di queste storie è curato al massimo. Hai perfettamente ragione. Lo sport un po' si presta a questo tipo di fruizione. Tornando al primo esempio che abbiamo fatto, proprio con Michael Jordan, in quegli anni la televisione con banalmente un ralenti ad altissima definizione permetteva per esempio di godersi non secondo per secondo, decimo di secondo per decimo di secondo le prodezze acrobatiche degli atleti. Quella cosa oggi è, come dire, si è evoluta quasi in anni luce in avanti. Pensate alle riprese eccezionali di qualsiasi sport, specie della Formula 1 o della MotoGP, per cui parliamo anche di oggetti che sono rapidissimi eppure fotografati veramente in ogni milionesimo di secondo. Lo show, lo spettacolo sono chiaramente una garanzia di tutte le serie che abbiamo elencato fino a qui. È tutto per questo episodio dedicato alle serie sportive. Con noi Emilio Cozzi, giornalista, scrittore, appassionato di cultura nerd e digitale. Con me a realizzare ancora una Poi Smetto, Alessandro Schirano e Paolo Corleoni. Tutta la serie è in esclusiva sul sito radio24.it e sull'app di Radio 24.